Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Di recente il caffè di Brera, il caffè della Pinacoteca di Brera, è stato dedicato a Fernanda Wittgens. Si chiama il Caffè Fernanda, un personaggio molto amato a Milano che vale la pena di presentare brevemente. Questa donna era una storica dell'arte, una funzionaria modello che si era distinta tra gli anni 20 e gli anni 30 come collaboratrice del direttore della Pinacoteca, Ettore Modigliani. Insieme avevano realizzato la più grande mostra di storia dell'arte italiana mai allestita al mondo, quella che venne allestita appunto nel primo anni, i primi mesi del 1930 alla Royal Academy di Londra. Vennero portate 600 opere italiane, dall'altro sopra una nave unica che nel viaggio di andata rischiò di affondare, divenne una delle storie più celebri del momento, anzi una delle pubblicità più straordinarie, perché poi andarono quasi 2 milioni di persone a vedere la mostra, anche grazie alla propaganda che questo pericolo corso aveva dato attraverso i giornali alla mostra. Bene, Fernanda si affiancò al suo grande mentore, al suo grande maestro. Era una donna particolarmente volitiva, alla fine ottenne addirittura un'onorificenza militare inglese e poi, quando purtroppo Ettore Modigliani, a seguito delle leggi razziali, fu costretto a lasciare l'incarico, prese in carico lei la Pinacoteca, una donna che gestì nell'ombra il periodo peggiore. Tra l'altro venne pure arrestata perché aveva aiutato degli ebrei a fuggire verso la Svizzera. Rimase in carcere fino alla liberazione e quando arrivò la liberazione venne riportata al suo posto e sarà lei nel 1950 ad inaugurare la Pinacoteca di Brera come oggi la vediamo, splendida, grande e ricca, e con le sale come le vediamo oggi, perché la nostra Fernanda Wittgens richiamò l'architetto Portaluppi, che già nel 1925 aveva riallestito Brera, lo richiamò, la fece ricostruire Brera secondo dei canoni moderni, quindi con i lucernari nuovi per esempio, e quindi quando ci fu l'inaugurazione i milanesi si trovarono davanti a un vero e proprio gioiello che ricordava la Pinacoteca antica ma che guardava assolutamente ai modelli nuovi dei musei di tutto il mondo e dell'Europa in particolare.